siete tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Circa un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate, dopodiché molta gente si è riversata sul terreno di gioco. Dubito che si possa disputare la partita, anche se ora l'interno del campo di gioco è completamente sgombro. Però sono crollate, cancellate, sono crollate reti di recinzione del campo e quindi la situazione è naturalmente molto molto precaria. Molto precaria. Ed ora vedo che, ecco, vedete che purtroppo debordano ancora e vanno. Beh, coraggiosamente Caprini e Tardelli, sì. Veramente con molto coraggio sono andati presso i tifosi, ecco anche Brio, sono stati indotti dai loro dirigenti a fare opera di persuasione verso i tifosi juventini, ma sono palliativi che mi sembrano del tutto inadeguati, anche se, ripeto, è da sottolineare il coraggio personale. Un tentativo vano, anche perché ormai le reti di recinzione sono divette, praticamente si dovrebbe giocare una gara con gli spettatori a stretto ridosso dei giocatori. A quel punto, nonostante il gravissimo episodio, fu giusto giocare quella partita per limitare al massimo ormai quello che poi si rivelò una grande catastrofe a livello calcistico. Secondo me il grande errore l'ha fatto la polizia belga. Hanno sbagliato loro dal mattino alla sera, perché già al mattino non c'erano tutte le avvisaglie, non si possono mettere tifosi del Liverpool e tifosi della Juve. Si fa solo due curve e poi si portano dentro. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Sono 30 anni e ognuno di noi ha un ricordo di quella notte, come di altre notti peraltro che hanno segnato la nostra vita sportiva. Sto parlando di sport. Io ero un ragazzo del liceo e piansi per lo shock, ve lo confesso, dopo quel fantasma di partite, dopo aver spento la luce. Giovanni Capuano, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. Ciao, vorrei evitare toni elegiaci, stiamo solo ricordando quella notte, lo ricordiamo con Emilio Targia, che è un collega, caporedattore di Radio Radicale, che presenta un libro. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Ciao, che presenta un libro che ha un titolo molto sobrio, Quella notte all'Aisella. Allora, è chiaro che il tuo ricordo sarà diverso da quello di tutti noi. Sì, per fortuna, insomma, nel senso che per fortuna ero lì, ma per fortuna sono qui. Tentativo, infatti, hai detto bene, innanzitutto buongiorno di nuovo e grazie a chi ci ascolta. È solo quello di raccontare, cioè non ho assolutamente nessuna pretesa di ergermi a giudizio o sparare sentenze, insomma è proprio un diario, un racconto che ci ho messo, non ti nego, anche qualche anno, come si dice, per sciogliere nel chiosco, perché era una faccenda un po' complicata anche dal punto di vista privato. Poi mi stava un po' perdendo, un po' sfilacciando, stava andando in direzioni un po' diverse. E allora mi sono quasi sentito in dovere, visto che insomma bene o male faccio questo lavoro alla fine, di condividere con la mente tutto qua. Insomma, il tentativo è solo provare a portare dentro l'Aisella chi non c'era, provare a raccontare quello che è successo dal di dentro, prima, durante e dopo, e poi ciascuno insomma trarrà, come dire, le sue considerazioni, le sue emozioni, i suoi giudizi. A 30 anni di distanza hai maturato delle convinzioni diverse, hai delle emozioni o sensazioni diverse? Rispetto ad allora le emozioni erano di non consapevolezza, di semi-incoscienza, come scrive anche nel nostro libro Sandro Veronesi, eravamo un po' dentro una bolla, anche lui che era davanti alla TV in Italia. In quel momento c'era paura, che poi è diventata rabbia, e dopo è diventata consapevolezza e adesso spero che sia attenzione. cioè attenzione a quello che ci è successo, attenzione alla memoria, perché ripeto, la sensazione è che ci sia bisogno di un po' di manutenzione, perché io veramente mi tolgo, credetemi, qualunque giacchetta di Juventino o non Juventino, in questo caso veramente me ne frega nulla, cioè, però da cronista, come dire, sentire che per 30 anni ci si è preoccupati solo della coppa sporca di sangue, della partita che si doveva giocare o no, e invece quasi zero della non giustizia, del perché erano successe certe cose, della rabbia magari verso chi aveva gestito male anche a Bruxelles i biglietti, degli inglesi infilati lì dentro, del ministro degli interni belga, insomma mi è sembrato che proprio ci si direzionasse verso un'altra cosa. Quelli lì erano 39 cittadini europei, di cui 32 italiani e 7 no, nemmeno tutti i juventini. Quindi io vorrei provare con tutte le forze a ricondurre, mica da solo, dovete darmi una mano tutti se è possibile, a ricondurre un po' la memoria verso quella, quella strada lì, altrimenti diventa insomma anche un po' surreale che diventi una roba della, soltanto della Juve. Erano anche tifosi juventini, c'era la Juve lì in campo, però ripeto, cerchiamo di ricondurre se si può la memoria su quella strada lì. Emilio, grazie. Grazie, grazie a voi. Un abbraccio. Ciao. Pierluigi, il tuo ricordo qual è? Io ho visto la partita in televisione, insomma ero molto, da 11 anni ero, devo dire, un bambino molto appassionato di calcio, fin da piccolo, e beh, il ricordo è quello di una... ce l'ho ancora vivo, insomma, mi ricordo benissimo che era a casa da letto dei miei, che, dove era messo il televisore, la casa era prima dei lavori, insomma, tutta una serie di cose banali e private che... è una tragedia terribile, una... io credo che per quelli della mia generazione sia stata un po' la perdita della, dell'innocenza nel calcio, no? Nel senso che è stata, io ho 11 anni, quindi è stata la prima volta, ero bambino, ero piccolo quando ci fu la cosa di Paparelli, che tra l'altro per un discorso di omonimia per uno fu anche un po' uno shock privato per una mezz'ora, perché io un mio parente si chiama Paparelli, che quel giorno era allo stadio e che poteva essere in quella curva, quindi però insomma, poi una volta appurata quella situazione lì, quello è un ricordo che ho molto, molto piccolo, mentre il ricordo della Isella è un ricordo appunto da undicenne, resta, quindi che da persona che stava a prima media, a seconda media, quindi sì, sì. E poi in questi anni ci sono molte cose che si sono intersecate, io credo sia stato importante e molto bello l'altro giorno, al di là del più 39 rispetto, sia la cosa più commovente secondo me sono i nomi, i nomi delle persone, che come diceva Emilio l'altra sera a Tikitaka, poi alla fine quel tipo di coreografia ha dato, quel tipo di ricordo ha riportato la verità dei fatti, la verità dei fatti è che non sono morte 39 persone, sono morti 39 nomi e cognomi, sono morti 39 madri, padri, figli, addirittura una bambina di 11 anni, e quando poi tu entri, e in questi giorni devo dire, per esempio c'era il bellissimo documentario di Emanuele Audizio su Repubblica, tutta una serie di servizi che ho visto su varie televisioni, pezzi di giornale, quando tu poi vai nelle storie capisci che non stiamo parlando soltanto di numeri. È chiaro, stiamo parlando, come diceva giustamente Emilio, di 39 cittadini europei con nome e cognome. Giovanni. Sì, io credo che per noi più o meno siamo coetanei. No, io avevo 14 anni, ero un po' più grande. E io credo che quelle ore passate davanti al televisore, insieme a quelle passate per la tragedia di Vermicino, che chi ha più o meno la nostra età sa che cosa significano, siano due esperienze indimenticabili, cioè che ci legano profondamente a quei due eventi. Di questa cosa, io credo che quello che fa male è che 30 anni dopo sia ancora una tragedia che invece che unire divida, perché purtroppo siamo ancora profondamente divisi, lo spiegava prima Emilio, ma non è soltanto una questione della coppa di sangue, di una partita da giocare o meno, è anche la difficoltà di riuscire, anche quelli che la pensano alla stessa maniera, a condividere pienamente lo stesso senso di consapevolezza, di rabbia, anche di conoscenza di quello che c'è stato e che ha portato a quella tragedia e che ancora oggi è elemento di divisione. Basti pensare a cosa è successo, o meglio a cosa non è successo nelle ultime settimane, per preparare una giornata come quella di oggi, che doveva essere la giornata del ricordo, della celebrazione, ma in un certo senso 30 anni dopo anche l'affermazione di una verità storica che oramai è stata acclarata. Ci fermiamo per il traffico, ragazzi. 800 24 00 24, so che avete molti ricordi anche voi, li tireremo fuori tutti insieme per farci compagnia se ne avete voglia. Poi c'è anche e tocca cambiare pagina, andare su un'altra pagina pessima come quello che sta succedendo a Zurigo. Lo faremo. Traffico. fu una tragedia. Io personalmente non ho mai alzato questa coppa, non mi sono mai vantato di aver vinto nella mia storia Coppa dei Campioni proprio per questo motivo, anche se mi dispiace parecchio, perché sono convinto che senza quella disgrazia avremmo stracciato la Liverpool, perché eravamo molto più forti, molto più esperti, più preparati. Tutti convocati. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta... Tutti convocati. Alors Julien Kouzeb, on a commencé ensemble en 1998, c'est à Singapour qu'on s'est mis d'accord pour l'avenir de la FIFA. Nous avons gagné ensemble, nous avons travaillé ensemble, aujourd'hui je viens te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA, parce que l'image est mauvaise, on ne peut plus continuer comme ça. Ovviamente avrete riconosciuto Michel Platini da una pagina doverosa di ricordo per iniziare. Ricordo che non si spegnerà mai, ad un'altra che si sta per scrivere e che non vedremo sinceramente l'ora di dimenticare alla svelta. Andrea Sorrentino è a Zurigo per l'elezione certa di Blatter oggi, la riconferma di Blatter oggi a presidente della FIFA. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, reduce da una cena di gala della FIFA che hai descritto minuziosamente oggi su Repubblica. Sì, è stata la notte, come tutte le notti che precedono un voto importante, è stata una notte molto lunga, no? È iniziata la cena di gala, è proseguita negli alberghi che ospitano le sei confederazioni, insomma qui si fa un gran parlare di lotta alla corruzione e di trasparenza, ma insomma poi i voti sono tutti uguali, ragazzi, e quindi sì. C'è chi li mercanteggia, ma è normale, è la natura dell'uomo, direi, non è solo quella della FIFA, non so sì. Come la pensate voi, però. E quindi c'è stata una lunghissima notte di consultazioni febbrili per cercare di spostare qualche voto. Non sembra che i tentativi di Platini e del principe Hussein abbiano portato un risultato eccezionale. Al momento abbiamo fatto un po' di domande adesso in una pausa del congresso, al momento Blatter mantiene una solida maggioranza, non dovrebbe riuscire, ma questo il condizionale è chiaramente doppio, non dovrebbe riuscire a passare al primo scrutinio quando sono necessari due terzi, poi passa al secondo con il 51%. Passa, cioè dovrebbe avere tra i 130 e i 135 voti garantiti Blatter su 209, quindi il secondo, la seconda catapulta sarà quella decisiva. No, abbiamo chiesto qui ai delegati, i più simpatici, più così, i più esperti ci hanno proprio detto vabbè, passerà la seconda, per non far vedere che è proprio un plebiscito, che poi sarebbe brutto, passerà la seconda e sarà presidente per la quinta volta. Certo. Tra l'altro durante la pausa del congresso, la pausa per il pranzo, c'è stato anche un allarme bomba, sì, ma io vi posso garantire che tutti i delegati hanno continuato a magnare tranquillamente. Sì. Ieri ho visto una foto meravigliosa postata da Zibi Boniek dei deleganti che dormivano, c'era un delegato che se la dormiva alla grossissima mentre Platini e Blatter facevano i loro interventi, le loro conferenze stampa. Qui tutti parlano per ore, sì. Qui tutti parlano per ore. Tra l'altro la rappresentanza maschile è totalmente schiacciante, abbiamo visto un paio di donne in tutta la sala, proprio secondo le migliori tradizioni. Sì, però voglio dire, Luigi, un disappunto di Sorrentino che va a Zurigo sperando di incontrare una bella delegata, cioè è inaccettabile questa cosa. Si sa che è un mondo drammaticamente, ma no, vabbè, adesso parte. Ma adesso tu non è che ci troviamo per forza io e te, dai tu. A parte le battute, mi sembra che sia proprio il segno di un mondo che non vuole cambiare, e mi sembra che non è la prima volta che succede, che poi alla fine molto spesso c'è una clamorosa distanza fra l'opinione pubblica, no? L'indignazione popolare e poi chi deve decidere. Vabbè, ma tu sai cosa fa il presidente della federazione francese, no? Qui il caso è chiaramente molto diverso da quello di Tavecchio, perché Tavecchio era inciampato su su una battuta assolutamente infelice, vergognosa, eccetera, però era una battuta, insomma, che quindi, insomma, qui siamo di fronte a una situazione un pochino diversa, no, da quello che sta venendo fuori, che sta emergendo, però anche in quel caso lì, insomma, no, ricordate i titoli di giornali, la campagna stampa, eccetera, eccetera, però poi alla fine conta il corpo elettorale. Il corpo elettorale in questo caso è composto dai delegati. Se i delegati non gliene può fregare di meno della... No, perché sono anzi in maggior numero con Blatter, alla fine voteranno per Blatter, come è abbastanza normale che sia. Però questo è un elemento che va sottolineato, una distanza completa, siderale, rispetto a quello che si dice, si scrive e si commenta dal resto del mondo. Sì, tra la realtà e il percepito. No, a me piacerebbe capire invece con Andrea, che conosce poi bene anche quello che accade dietro le quinte, questa cosa, cioè se davvero Blatter dovesse passare con 130-135 voti, se quello di oggi non è che poi semplicemente che il primo atto di una guerra che è destinata da qui a qualche mese comunque a cambiare le cose, cioè se partire con una base di 70 è una base con cui poi tu puoi nell'arco di un tempo ragionevole ribaltarlo. Pare che non sia una base ragionevole, ecco, questo era un altro degli argomenti che tenevano banco adesso. 70 voti sono pochini per pensare di poter scalare nei prossimi mesi la FIFA dall'interno. È più probabile, e questo era un altro punto di vista di alcuni delegati, è più probabile che se la FIFA continuasse al ritmo di un paio di grossi scandali all'anno, se questa inchiesta americana e anche quella svizzera andasse avanti e mietesse altre vittime nei prossimi mesi, sarebbe ben difficile per Blatter resistere alle pressioni, ma quelle internazionali più che quelle interne alla FIFA, perché come avete visto gli sponsor, che poi sono quelli che decidono tutto, cominciano ad avere un sacco di dubbi. La stessa ONU ieri ha fatto sapere che mette in discussione la partnership. I più grandi governi internazionali, dagli Stati Uniti all'Inghilterra, hanno posizioni molto decise, forse anche la Germania, che oggi con un suo portavoce ha fatto capire che vogliono vederci chiaro sulle cose della FIFA. Quindi è più probabile che Blatter possa essere messo in difficoltà dalle pressioni esterne che da quelle interne, perché lui sono 30 anni che distribuisce favori, certo, di qua e di là, è inattaccabile. Infatti, certo, il caso che stava facendo cenno Carlo, sentivo, il caso della federazione francese è emblematico. Il presidente della Federcalcio ha detto io voterei Platini se si fosse presentato, perché per me è il candidato migliore. Dato che non c'è, io voto Blatter perché ha dato la Francia i mondiali di calcio femminili, sì, del 2019, esatto. E come lui, a tante altre piccole e grandi federazioni sono grate a Blatter per una serie di cose che sono successe in questi anni. Quindi la politica è anche questo, eh. Io poi ho un atteggiamento un po' abbastanza laico, non mi scandalizzo molto. La politica è questo, a tutti i livelli, è scambio di favori e pubbliche relazioni e politica, e politica la sua massima espressione. Quindi oggi è il giorno nero di Platini, che ieri si è esposto, abbiamo letto che non riesce a tenere insieme nemmeno i 53 della UEFA, e di solito chi si espone così tanto e poi perde paga qualche conseguenza, almeno a livello di immagine. Esatto, ma lui uscirà senz'altro sconfitto se le cose andassero così. Ma tra l'altro Platini ha avuto un risveglio come minimo tardivo, perché soltanto ieri si è scatenato. Lui ha appoggiato Blatter nelle precedenti elezioni, perché sono amici, perché hanno evidentemente anche delle cose in comune. Lo stesso Platini è un altro che allarga il suo potere facendo così, andando incontro alle piccole federazioni europee, come è successo con l'allargamento della Champions League, come è successo con l'allargamento della fase finale dell'Europeo a 24 squadre, che sono un assurdo. Anche quello si fa per allargare la base elettorale. Platini in questo non è dissimile da Blatter, quindi difficile possa dare lezioni. Grazie Andrea, grazie, buon lavoro, divertiti. Abbiamo ancora tutti la memoria Polonia e Ucraina del 2012, e quella busta non l'ha aperta Blatter. No, chiaro, la aprì Platini. La apri Platini, e quello non si può dimenticare. Pierluigi, sei lì? Sì, sì, sì. Sì. Senti, abbiamo la borsa, poi cominciamo a parlare con gli ascoltatori, poi vediamo su altri temi. Io non sono un neofito del calcio, non so, ho chiesto Blatter, mi sento parlare, però dato che vedo che hanno arrestato uno dei Caima, e quello il calcio è nei Caima, ma che ne frega la gente dei Caima. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Per lavoro lavoro o vacanze, scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta... Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Occhio e croce, non è un gran venerdì, tocca dare un'altra notizia. È mancato Bruno Pesavola, il Petisso, grande ex giocatore e allenatore del Napoli. Come Giovanni Capuano, per Luigi Pardo volevo chiedere, sottoporre una considerazione. Per la cronaca, che conoscerai già benissimo, ha parlato dopo Galliani ieri, pure Berlusconi oggi, su Ancelotti, dicendo spero che torni sulla panchina del Milan. Ci lega un affetto forte, è stato un vincente ovunque andato, voleva darsi un anno di sosta, Galliani è riuscito a convincerlo quantomeno per metà, sarebbero pronti molti soldi per fargli costruirgli una squadra intorno. A quest'ultimo punto cominciamo a crederci un po' di meno. Sì, però attenzione, perché Berlusconi è un uomo che vive anche di orgoglio, bisogna vedere che cosa decide di fare, di voler fare nella sua vita con le sue aziende, che cosa gli dà più emozione, se gli dà più emozione la politica, se gli dà più emozione la TV, se gli dà più emozione il calcio, nel senso che dal punto di vista economico è chiaro che oggi, rispetto a 15 anni fa, 20 anni fa, come tante volte Galliani ha spiegato, esistono dei nuovi ricchi, sono coloro che producono le materie prime, le materie prime nel mondo, che sono talmente forti, talmente care, talmente dominanti, che chi controlla o ha addirittura un'egemonia, in qualche caso addirittura un oligopolio, un monopolio di queste materie prime, ha una forza incredibile. E da questo punto di vista gli imprenditori italiani invece sono sempre comunque serie B, perché sì, certo. E Berlusconi è fra questi, ovviamente, come tutti gli imprenditori italiani, rispetto a questi signori così ricchi. Però dal punto di vista delle risorse, insomma, io credo che Berlusconi, se decide che vuole tornare a essere competitivo col Milan, secondo me ci può riuscire. È una questione di volontà, è che in questi ultimi anni ha avuto tutta una serie di business e di diversi che non hanno riguardato soltanto il business, che lo hanno portato anche in altre direzioni. Quindi, sai Pier, però secondo me qual è il problema? Che noi stiamo veicolando informazioni un po' diverse, un po' in contrasto, nel senso che tra le tante cose che ha detto Berlusconi in queste settimane c'era anche l'ammissione, che poi è nei numeri, cioè Berlusconi certificava una cosa che era nota da tempo, e cioè che non esiste più la possibilità per la sua famiglia, così come per tante altre famiglie, faccio l'esempio di quella Moratti, che infatti ha ceduto l'Inter a Toir, di restare competitivi facendo degli investimenti che siano in linea. Perché poi Berlusconi non è che i soldi non li ha spesi, cioè la gente deve capire questo, Berlusconi ha speso tantissimo per il Milan negli ultimi anni, semplicemente ha speso per andare a chiudere i buchi, ha speso i famosi 287 milioni di euro in 5 anni, dal 2010 ad oggi, per non costruire nulla, messi dentro nei bilanci per ridimensionare, perché poi comunque questa è la dimensione attuale del Milan. Cioè, secondo me il ragionamento da cui si deve partire è questo. Poi Berlusconi è intelligente e quindi sa benissimo che questo è forse il punto più basso del suo Milan, e che da qui in poi c'è il rischio anche di andare ad intaccare quel patrimonio di brand, di credibilità, che poi gli può servire anche per dare un valore al Milan, e quindi è evidente che in qualche modo deve investire. Ma se i milanisti pensano, questo è il mio pensiero, che con Berlusconi si possa aprire una nuova età dell'oro, secondo me sono fuori strada. Sì, intanto oggi si torna a leggere, ad esempio su Repubblica, il rilancio di B, e torna fuori questo nome, offre 1 miliardo, poi da qui a vedere quel miliardo, noi non lo vedremo, Berlusconi magari sì, chissà, glielo auguriamo, ne passa un po'. Gabriele Rimini, buongiorno. Gabriele Rimini, 5 minuti. Pasquale, provincia di Foggia. Pronto, buon pomeriggio. Pasquale dal Gargano. Da Gargano, nostro vecchio amico, sì. Dica. E vi voglio anche a voi sopra il Gargano, che è spettacolare. Volentieri, vediamo. Dica. Allora, ho due domande da fare. La prima, voglio sapere se Ancelotti verrà al Milan come allenatore, e poi la seconda volevo sapere se verrà Ancelotti, che Milan farà Ancelotti? Cioè, lo vuoi sapere da noi? Lo sa, credo che non lo sappia neanche Galliani. No, Galliani sa che è al 50% e quindi aspetta. 50%. Io, se posso sbilanciarmi, dico 49%. Diciamo, cioè, secondo me non è poi cambiata tanto la situazione rispetto a quell'intervista di Ancelotti ad Ordine. Io dico pure meno. In cui diceva: grazie, io avrò sempre il Milan nel cuore, però in questo momento non ci sono le condizioni. Però è anche vero che è rimasto lì 5 giorni. Gagliani, e quindi evidentemente di qualcosa, e non soltanto della voglia di staccare di Ancelotti o della sua operazione alla cervicale, insomma di qualcosa si sarà parlato in maniera un po' più concreta, e quindi adesso aspettiamo questi 2 o 3 giorni e vediamo se per caso ad Ancelotti è venuta voglia di rituffarsi in questa avventura. Io resto sul 49 prudenziale. Sì, io resto su qualcosa di meno. È vero che Gagliani è stato lì 5 giorni, ma Benitez e De Laurentiis, prima della conferenza stampa di ieri, sono andati avanti per molto più di 5 giorni e molto più di 5 settimane, per le loro ragioni del tutto legittime. Paolo Bologna. Salve, buongiorno. No, okay. Nulla, volevo chiedere questo. Ho letto anche credo nelle settimane scorse su alcuni giornali importanti, La Repubblica mi pare, forse Corriere, che in realtà il grande capo del calcio italiano non è tanto lo tipo, ma questo Bogarelli che è in front, almeno questo emergeva dagli articoli, eccetera. In front, che se ben capito, in parte è stata acquisita da un gruppo cinese, sì, eccetera. E però è la Infront Italia che fa capo alla Infront, che ha sede in Svizzera, questo ben capito, la proprietà o comunque la gestione del figlio di Blatter. Del nipote. Nipote, sì. Chiedo scusa. E, no, gli chiedevo, perché sono cose che ho letto un po' così, riuscireste nelle prossime puntate a costruire un po' questo quadro, magari, non so, come lo appoggio qualche collega vostro, e raccontarci un po' com'è il giro, perché la Infront è il giro è semplicissimo. Guarda, spiega Pardo. Infront è l'agenzia che le società della Serie A hanno scelto come advisor della Lega per la commercializzazione dei diritti televisivi. In 5 anni ha aumentato gli introiti della Lega del 70%, del 73%. Certamente si dice, leggiamo sui giornali, che sia più legata al mondo di Galliani, Lotito, Preziosi, eccetera, eccetera, però mi pare che poi sulle decisioni definitive, queste decisioni vengono prese a larghissima maggioranza e in qualche caso addirittura all'unanimità. La famosa cosa della quale si è tornati a parlare una settimana fa sullo scambio di diritti fra Sky e Mediaset, con l'istruttoria che finirà ad aprile del 2016, da quello che abbiamo capito da Beninazzo è in realtà una non storia, nel senso che in pratica c'è un accordo con la Lega che è contenta, Sky che è contenta, Mediaset che è contenta, e con una suddivisione di diritti che quindi piace a tutti. Questo è quello che sappiamo, insomma, questa è l'attività del gruppo Infront, che poi gestisce, ma come ci ha spiegato Bogarelli proprio domenica scorsa, in maniera non esclusiva, nel senso che loro sarebbero ben felici di allargare il loro, diciamo, il loro mercato, gestisce i diritti commerciali all'interno di tutta una serie di stadi, di alcune squadre italiane. Sì, sono 8 club, 8 su 20 che si affidano la propria pubblicità interna. L'azienda di arrivare a 20 su 20, quindi non c'è preclusione nei confronti di nessuno. Questo è, insomma, poi il resto non lo so, insomma, non so se esista un resto, però mi sembra che in un mondo del calcio che ha 1000 problemi e 1000 casini, se c'è una cosa sulla quale bisogna essere oggettivi, è che i diritti televisivi vanno. Si fanno degli affari su quelli, affari, si tratta di soldi che tengono i piedi del calcio. Basta connettersi con l'FBI, basta connettersi con l'FBI per capire che è uno dei grandi temi anche al centro di quell'inchiesta lì, cioè che i diritti televisivi valgono talmente tanto che intorno c'è anche un giro di corruzione, di affari, di tangenti, che è tutto quello che abbiamo letto sui giornali in questi giorni, a proposito del quale non abbiamo letto il nome del nipote di Blatter e di Infront, che invece tratta i diritti mondiali dei campionati del mondo, e quindi noi dobbiamo presumere, visto che mi pare che l'FBI sia andata giù abbastanza pesante, che non ci sia niente. Poi se cambierà qualcosa saremo qui a raccontarlo. Marco, guarda, io trovo che questa sia un'epoca abbastanza di fuffa, no? Nel senso che siamo tutti, il motivo del quale non siamo, nessuno di noi è scandalizzato, perché era nell'aria che all'interno della FIFA potessero esserci delle cose che non tornavano. Però bisogna essere molto onesti. Prima cosa c'è la presunzione di innocenza, e vabbè. E soprattutto c'è in non buttarla tutta in caciara. Cioè, non è che adesso tutto ciò che riguarda, faccio per dire, i diritti televisivi o il business del calcio è corrotto. Qui ci sono delle responsabilità personali, ci sono state delle assegnazioni di tutta una serie di manifestazioni sportive che ci hanno lasciato molto perplessi, lo dico sinceramente, ma non me ne vorrà Platini, io sono rimasto molto perplesso dall'assegnazione dell'Europeo, dell'UEFA, dell'assegnazione dell'Europeo 2012, che doveva finire all'Italia, secondo molti, sembravamo i favoriti, ed è finito. Quindi è un po' quello che diceva Sorrentino, cioè poi alla fine queste attività a livello di FIFA e di UEFA vengono gestite da uomini. E questi uomini in qualche caso sono corruttibili, in qualche caso sono proprio corrotti. Certo. In qualche caso arriva un'inchiesta di qualcuno che decide. E comunque il volume di denaro che gira intorno a tutto questo non si può negare e non si può nemmeno pensare che ci sia totale pulizia nella gestione di quel denaro. Però siccome i diritti televisivi vengono tirati spesso a sproposito, la cosa insomma mi sembra veramente assurda, perché sono due storie diverse, non c'entrano nulla. No, ma poi al di là del fatto che mi pare che i diritti televisivi vengano trattati più o meno pubblicamente con cifre che sono ben note e con operatori che sono altrettanto noti. Ci fermiamo un attimo per il traffico. Già saluto Giampiero Timossi che è in linea con noi. Ciao Giampiero. Ciao, buongiorno. Arriviamo subito. Te la cedo, ma avete un po' titubante, no. Stomo. Dove sei uno dei più bravi giornalisti romani, europei, italiani. Tutti convocati. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta. Convocati. Un altro Ferrero, per favore. E un bilancio di questo suo primo anno, è un anno che si è insediato lei alla presidenza della Sampdoria, giusto? Un anno esatto adesso. Io non capisco cosa. Un anno di noci, di gioie, o di cosa? Facciamo grozza. Non so che. No, io so Ferrero. Arriviamo alla domanda. Allora, un bilancio della sua primo anno da presidente della Sampdoria. Io penso che i bilanci li fanno i commercialisti. Questo Ferrero, io a Giampiero Timossi voglio farmi raccontare l'aria strana di Genova dopo una stagione meravigliosa. L'ultimo giorno di scuola non lascia la certezza di una promozione entrambi gli studenti. Ma sì, però non è un'area così strana, diciamo che non c'è neanche la sensazione che stia vivendo qualcosa di particolarmente complicato o di particolarmente triste per la città di Genova, devo essere sincero. Da una parte c'è il Genoa che non ha ottenuto la licenza UEFA, come ben sapete, sì. E che probabilmente, anzi quasi sicuramente non la otterrà, e dall'altra parte c'è la Sampdoria che potrebbe, anzi io credo che andrà in Europa League al posto del Genoa, perché è vero che nel regolamento c'è un cavillo, voi lo sapete benissimo, per cui le squadre condannate che hanno avuto giocatori condannati perché per vicende di calcio scommesso in qualche modo dovrebbero scontare un anno di stop alla loro qualificazione alle coppe europee, ma c'è il precedente del Torino che mi sembra che parli chiaro, anche il Torino aveva avuto una situazione del genere quando si era qualificato, cioè l'anno scorso ha tranquillamente giocato. Non sei preoccupato per il futuro delle squadre genovesi? No, io non sono preoccupato tanto per il futuro delle squadre genovesi, sono semmai un po' preoccupato per il futuro del calcio italiano. Se sarò velocissimo, ma sentivo con attenzione quello che dicevate prima, mi sembrava di sentire Pier Pardo parlare. Io ho una visione un pochettino diversa, abbiamo lavorato in questi giorni su questa vicenda. È vero che Infront non è assolutamente il male del calcio italiano, anzi, ci mancherebbe altro. Io non credo neanche che però Infront sia questa fonte di sostentamento del nostro calcio, o se lo è in maniera interessata, e mi sembra che le vicende degli ultimi mesi dicano questo con chiarezza. Ricordiamo che Infront a inizio anno è stata acquisita dal gruppo Vanda, che è un gruppo cinese che ha moltissimi interessi, tra cui interessi immobiliari, che in questo momento ci sono alcuni club che con chiarezza, senza neanche nasconderlo, hanno in Infront la loro uno su tutti il Milan. Pierluigi, te la risposta. Ma questa, scusate, ma adesso noi devo fare l'avvocato difensore. Io penso che esistano le imprese nascono per fare profitto. Questa chiaramente è un'agenzia che nell'aumentare del 70% in 5 anni il fatturato del calcio italiano, cioè nel, è come se fosse un agente, è come se uno ha l'agente, questo agente in 5 anni ti fa guadagnare il 70% in più e si prende la sua parte. Io non ci vedo veramente niente di male, sarebbe assurdo, ci sarebbe la Caritas, sarebbe una fondazione benefica, e non è questo il caso, ovviamente, evidentemente non è il caso di Infrot, che ha i suoi interessi economici, ma che mi sembra che poi nella sostanza dei fatti, tutte le volte che deve, che porta una soluzione, incontra una totale unanimità o addirittura appunto l'unanimità o comunque delle larghissime maggioranze, perché la famosa suddivisione dei diritti fra Sky e Mediaset l'anno scorso, della quale si è parlato la settimana scorsa, ha visto felici Sky, Mediaset e 19 società su 20 che hanno votato a favore. Allora scusate ragazzi, ma di che stiamo parlando? Poi sulla novità dell'anno scorso è che è stata acquisita dai cinesi, adesso vedremo, è chiaro che se succederanno delle cose tipo che vedremo che poi non è Infront che decide come dividere i soldi e i diritti televisivi, cioè, tu dici, è la Lega fa semplicemente la gente il regola della situazione, fa la gente. Gian Piero. Cioè prende, scusate, raccoglie un totale che è 100, che viene diviso secondo una serie di parametri che decide la Lega, non è che li decide Infront i parametri di suddivisione della Lega. Che Infront sia il male del calcio italiano, sto dicendo che inevitabilmente con gli interessi che muove condiziona prevalentemente il calcio italiano. Ti posso dire, nell'anticipare ad esempio i diritti ad alcuni club, in questo momento parlo di un club di Serie B che tutti conosciamo, probabilmente non fa il bene del calcio italiano, forse. Nella gestione della vicenda Brescia, squadra nobile e decaduta perché insomma è retrocessa purtroppo in Serie C, l'Infront credo che abbia, anzi sicuramente ha un ruolo determinante. Allora, se diciamo che serve chiarezza nel calcio italiano, cioè serve capire chi sono i proprietari, quali sono i loro obiettivi, quali sono i parametri per sostenere una squadra di calcio, forse ci vuole chiarezza anche questo. Mi sembra che Infront porti sicuramente degli investimenti, sicuramente una società che vuole fare un profitto ed è legittimo, logico, però non mi sembra che porti particolare chiarezza nel calcio italiano in questo momento. Ma riprendiamo l'opinione, mentre sono dati di fatto che in società come Lazio, Salernitana, Bari o Brescia, Infront ha un peso importante. Ragazzi, riprendiamo la discussione alla prossima. Adesso devo passare in Algeria. Grazie per Luigi. Ci sentiamo sì, domenica. Però, scusa, no, se vuoi restare a dopo, perché adesso devo andare in Algeria. Cioè, Infront ha anticipato i diritti commerciali che derivavano quindi dalla gestione dello stadio al Bari. Ah. Cioè, torneremo secondo a me questo è tutto da rifare. Tutti convocati. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani oppure mai. Pezzi di Vita Tour dal 18 aprile nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. Convocati. Nel corso del GR apro una busta che mi è arrivata e dentro c'è, ringrazio, Massimo Ferrero, Una vita al massimo, scritto con Alessandro Alciato. Una vita al massimo e tra parentesi ed è il minimo che posso dirvi. Quarta di copertina, il mondo la mattina si alza e inizia a correre verso l'ufficio, la metropolitana, un treno, un cappuccino. Quando ti accorgi di esserti rovesciato addosso il cappuccino è già notte e magari hai incrociato anche un bel tramonto senza vederlo. All'alba dei miei 60 anni mi sono chiesto: mando corre, coglione? E mi sono dato anche una risposta: chi si ferma è perduto, presidente. Vabbè, avremo modo di leggerlo. Intanto io volevo chiudere il circo di questo meraviglioso venerdì tra il ricordo dell'Aisel doveroso, le elezioni della FIFA, Infront, tanti dibattiti per cui purtroppo non c'è stato il tempo necessario per arrivare a sviluppare considerazioni che non fossero quelle che abbiamo sentito. C'è anche un'altra storia, perché, e anche qui è cronaca, Giovanni Capuano che è qui con me, questa settimana si è molto parlato di Inter, di Toir, di manovre economico-finanziarie strane, di conti esteri alle Cayman, non so se a casa del signore che è stato arrestato. No, dai, non esageriamo. Tra l'altro è stata anche l'occasione per fare un po' di chiarezza nel senso che abbiamo scoperto che in realtà quello che veniva descritto del modo di gestire l'Inter era prassi comune, ad esempio, di metà dei club della Premier League, oppure anche di altre società italiane, a partire dall'Udinese. Poi ovviamente l'inchiesta del Corriere della Sera sollevava una serie di dubbi che andavano al cuore delle tante domande che si fanno in questo momento i tifosi dell'Inter sulla reale consistenza di Toir e del suo progetto. Ebbene, Toir ha risposto qualche minuto fa con una lettera aperta. Cari interisti, negli ultimi giorni sono state scritte informazioni fuorvianti e inesatte sul modo in cui il mio gruppo gestisce le proprie attività e sulla mia volontà di supportare l'Inter in futuro. Se qualcuno, ha scritto Toir, sta pensando che queste storie ci distrarranno dall'obiettivo di portare importanti risultati per l'Inter, si sbaglia. Il mio gruppo ha attività in tutto il mondo e ho investito in Italia nello stesso modo in cui ho investito con successo negli Stati Uniti e in altri paesi. È mio dovere, cosa ancora più importante, mia volontà come azionista di investire nell'Inter, ed è quello che sto facendo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, cosa dice Toir? Dice: quel sistema di società, di scatole, chiamiamole cinesi, anche se spesso questo ha un significato negativo del termine, è qualcosa che viene utilizzato come prassi nel mondo della finanza internazionale, quindi non ci si deve stupire che un grande gruppo che dall'Indonesia viene ad investire in Italia utilizzi questo tipo di strumento finanziario. Ma soprattutto dice: se avete dubbi perché io presto i soldi e non li inserisco direttamente nel capitale, se vi sembra che il mio tasso di interesse oltre l'8% sia un pochino esagerato, eccetera, eccetera, eccetera, tutte queste cose, dice Toir, non fatevi distrarre, perché in realtà io sto investendo per riportare l'Inter a essere grande. Lo scopriremo. La postilla è: lo scopriremo, così come scopriremo, perché viene scritto in queste ore, se davvero alla fine questo 8% di interessi sui soldi che Toir sta prestando all'Inter sarà un interesse che Toir chiederà indietro, o se invece, come fece ad esempio Abramovic all'epoca, dopo qualche anno sono tutti soldi che resteranno nel bilancio della società. Evidentemente fa tutta la differenza di questo mondo, e in questo momento non esiste nero su bianco una risposta a questa domanda. Sì, e per chiudere, per aggiornare il discorso di prima, dicevi sulla storia dei club che si fanno anticipare i soldi, i diritti televisivi. Sì, è una prassi anche questa abbastanza comune, poi non da Infront, effettivamente in questo Giampiero Timossi non aveva torto, cioè la vicenda del Bari e forse del Brescia con Infront è comunque una vicenda che merita di essere raccontata perché sia trasparente. Però ad esempio, se si leggono i bilanci di tantissime squadre, mi viene in mente l'Inter, mi viene in mente il Milan, che è l'ultimo che è stato licenziato, la prassi di farsi anticipare dagli istituti di credito i proventi dei diritti televisivi e dei contratti di sponsorizzazione, perché sono quelli certi, tu hai firmato con Nike, con Adidas, tu lo sai che ti arriverà quella cifra lì, farseli anticipare dalle banche, si chiama factoring, è una cosa che fanno tutti, è una prassi normale. Che fanno pressoché tutti. Giorgio, Napoli, Alessandro, la provincia di Milano, poi volevo parlarvi di basket, non so se sarà possibile, finale NBA eccetera, però intanto Giorgio da Napoli, buongiorno. Buongiorno, ascoltavo la molto grazie alla convocazione. Ascoltavo prima le considerazioni relative alla FIFA, quello che sta accadendo, che effettivamente forse delle cose strane possono accadere anche all'UEFA, però per quanto mi riguarda, io al momento in cui fu comunicata come sede dei mondiali il Qatar, io penso che anche un bambino di 5 anni poteva immaginare quello che c'era dietro, perché e poi Giorgio, però tra l'immaginare con la mente di un bambino di 5 anni e prendere le persone, metterle in manette ed avere delle prove certe, c'è una bella differenza. Poi è chiaro che tutti noi qui, compreso De Luca, Capuano, tutta la radio, todo il mondo, immagina che ci sia dietro qualcosa di poco chiaro, dietro quelle assegnazioni Russia, Qatar, Polonia-Ucraina, Salt Lake City 2002 per le Olimpiadi. Tra l'altro lì ci sono delle condanne, ad esempio, esatto. Perché poi noi ci scandalizziamo di quello che è successo nei mondiali, però anche Olimpiadi invernali del 2002, Salt Lake City, Stati Uniti, quindi la stessa patria da cui viene l'inchiesta dell'FBI, e in quel caso ci furono episodi di corruzione. Ma non c'è dubbio che insomma sia questo il punto debole, cioè dietro l'assegnazione di questi grandi eventi sportivi che valgono miliardi si possa nascondere la corruzione. Poi ripeto, tra il sospettarlo e l'avere delle prove certe dei responsabili individuali e delle condanne, vabbè, lì secondo me sta la differenza. Abbiamo detto sì che è morto Bruno Pesavola, diciamo di nuovo, 89 anni, campione d'Italia con la Fiorentina nel 69, allenatore del Napoli, del giocatore del Napoli, allenatore del Bologna, un grande personaggio sportivo. Non è Giorgio da Napoli, con cui abbiamo già parlato, qualcun altro arriverà. Intanto ieri abbiamo sentito Iannone, si corre al Mugello nel weekend, sarà una gara meravigliosa, e Dovizioso è andato subito fortissimo nelle prove. Valentino vuole ritornare a vincere a tutti i costi al Mugello, Lorenzo è una delle sue piste migliori, Marquez deve rifare il risultato e ci siamo noi, quindi sarà bello secondo me domenica. In un momento speciale, stiamo facendo molto bene, abbiamo già fatto 4 podi e il Mugello è importantissimo per noi, per tutti gli italiani, ma soprattutto per Ducati. Abbiamo fatto un bel test, quindi siamo sicuramente ottimisti, ma sappiamo benissimo e siamo consapevoli quanto è dura questa gara, quanto è difficile essere a posto per i 23 giri, però ci arriviamo belli carichi. Ci arrivano carichi, sì. Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per la chiamata. Dica. Io volevo tornare un secondo sul discorso di Ancelotti a Milano. Ovviamente giocando un po' tanto quello che si sa è sempre relativo, lo si saprà dopo forse, e non si sa se si saprà tutto, ma è una considerazione che mi è capitata di fare parlando anche con Elisi, che se fosse esattamente il contrario rispetto a quello che si è sempre immaginato, e che quindi al contrario Berlusconi abbia trovato veramente qualche investitore che però l'ha messo al muro dicendogli sì, io Giulia te le do anche, però prima devi garantirmi che gli Ancelotti di conseguenza vengano giocatori, posso andare a comprare giocatori importanti perché legati al personaggio. Però posso dire facciamo una cosa? Facciamo buona quell'altra, dai. Facciamo buona l'altra. No, ma anche perché se io sono Mr. B, arrivo, prendo il Milan, quant'è un miliardo, quant'è 500 milioni, eccetera, eccetera, poi vado a cercare Ancelotti, poi con Ancelotti prendo i giocatori, eccetera. Non è che prendo il Milan se c'è Ancelotti, me lo vado a prendere da solo, dandogli i soldi che gli servono e magari facendo anche meno fatica a convincerlo. Riesco a parlare di quanto ci attende sui campi di basket, non solo in Italia ma pure in America. Golden State Warriors alla caccia del secondo titolo della loro storia, oppure sarà la prima volta di Cleveland e di LeBron James nella sua Cleveland? Green with Harden guarding him, finds Curry, quick release on the three, got it! Harden lost it again. Here comes Iguodala all alone. No, perché dopo un sacco di blatter, dopo un sacco di casini legati al calcio, se ti vuole ci sono le finali NBA, e cosa strana, dietro le mille storie che ci sono sempre dietro le finali NBA, è che un ragazzo nato ad Akron, non indimenticabile posto dell'Ohio, 200.000 abitanti, vincerà il titolo. Quale? Lo scopriremo da mercoledì in poi. Massimo Riani, buongiorno, da Gazzetta dello Sport. Buongiorno a voi. Ciao, la finale che tutti volevamo vedere in fondo. Se sarà sì. Golden State dopo l'unico titolo con Rick Barry, o 74-75, o sarà invece LeBron James per la prima volta a Cleveland dopo quello che è successo, le magliette bruciate, il ritorno, eccetera. Non possiamo darla tutte e due, sarebbe molto bello. No, ma no, Max, non è sportivo, dai, ci deve essere un vincitore, uno sconfitto, per cui lo daremo ai Warriors secondo me, perché dici? Sì, io credo che siano decisamente favoriti, perché allora diciamo, se la situazione rimane com'è attualmente, cioè con Kyrie Irving che magari recupera e gioca gara 1 bene, però poi gara 2 gli si la tendinità al ginocchio con ritorno dagli fastidio, cosa che è successa abbastanza con preoccupante regolarità nei playoff, e dall'altra parte Klay Thompson ha tempo per recuperare dalla commozione cerebrale. Io credo che sia molto difficile per i Cavs spuntarla, anzi direi, se mi chiedi pronostico secco ti dico Warriors in 5. Poi c'è LeBron, magari arrivano anche a 6, ma mi sembra difficile vederli. Ma secondo te LeBron ha giocato la sua miglior pallacanestro di sempre in questi playoff? I numeri direbbero di sì. Da un certo punto di vista sì, ma non solo per come ha giocato lui, ma per come hanno fatto giocare quelli accanto a lui, che era poi la vera forza di Michael Jordan. Certo, quando si risolve la partita la palla ce l'ha in mano lui, ma siamo sicuri che Matthew Della Vedova, come lo chiamano da quelle parti, o Tristan Thompson, senza LeBron accanto, ma con un'altra comunque star, diciamo, avrebbero reso in questo modo? Io non credo. Beh, io sarei contento per Bled, posso dirlo, lo sentiamo un po' nostro, David Bled. Bello, ne stai parlando a un bostoniano incallito come me e sappiamo bene di David Bled e di Boston, Framingham, l'orgoglio, the pride of Framingham, Massachusetts, per cui sarei strafelice, non felice, di vedere Bled vincere, anche perché alla faccia di tutti quelli che ancora adesso lo ritengono un pupazzo nelle mani di LeBron. Giovanni, la guardia finale miei. Ma sì, insomma, orari permettendo. Quindi mi pare di aver capito che dovremo misurarci ancora sull'etichetta di perdente di qualcuno, se davvero le cose andranno come è stato detto. Comunque tutto ruoterà o molto ruoterà intorno alla figura di LeBron. Beh sì, è inevitabile, perché quando sei il numero uno al mondo sei talmente polarizzante che nel bene o nel male oramai è diventato come tutti i grandi campioni che magari partono senza suscitare grandissime simpatie perché con qualche passo falso, oramai ha diviso il mondo in due, tra chi lo ama e chi lo odia. Io sono passato da una parte all'altra perché nel giorno famoso della decision sono rimasto molto male per come si era comportato, per come aveva lasciato Cleveland, per l'immaturità. Devo dire che ha guadagnato, sono passato dall'altra parte perché non, a parte che non puoi ammirare quello che fa sul campo da basket, perché non, poi ce ne accorgeremo un domani quando non ci sarà più a cosa abbiamo assistito in questi anni, sì. Ma anche perché devo dire che è cresciuto anche di testa non poco, è diventato sì. Maturo sotto tutti i punti di vista. Resta quella frase famosa di Barclay, normalmente sono i grandi campioni ad attirare gli altri campioni a casa loro e non ad andare via per vincere un titolo, quando andò a Miami. Esatto, e cosa che ha fatto quest'anno, ha attirato Kevin Love, beh, Kyrie Irving si è trovato lì e ha attirato magari non dei campioni ma dei giocatori fondamentali come Mozgov, J.R. Smith e Shumpert, che stando ai numeri e stando a quello che si è visto in campo hanno girato la squadra, poi chiaramente Love si è fatto male. Proprio io credo nel momento in cui stava entrando nel meccanismo giusto e stava capendo qual era il suo ruolo, sì. Io penso che il fatto che sia fatto male, che gli rimanga la mare in bocca per come è andata a finire la stagione e per come l'ha vissuta, non credo che lo rivedremo in maglia a casa. L'ultima cosa, Massimo, visto che parlavamo di diritti televisivi su altri fronti, come vive l'America televisivamente questa finale? Cioè quanto interesse c'è per questa finale che è ovviamente del tutto inedita? Le semifinali, i dati di ESPN sono stati più alti di sempre per le semifinali, per cui credo che da questo punto di vista ci sia grande attenzione, anche perché ritorniamo al discorso di LeBron, amato o odiato, per cui c'è chi lo guarderà, le guarderà per vederlo vincere, o chi le guarderà per sperando che perda. Grazie Massimo. Alla a prossima. Voi, buona continuazione. Ciao. Con questo abbiamo scoperto che ci sono i gufi anche goofy. In America. Sono tonnellate di gufi, quintali e decine di quintali di gufi anche in America. Germano, provincia di Torino, e poi sentiamo la voce di Contatore e vediamo cosa succede a giro. Germano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo tornare se possibile sulle Israel, anche se è un po' tardi. Comunque volevo solo il ricordo che avevo di quella giornata, ma non tanto queste tragedie sportive, unire i tifosi. Un piccolo aneddoto, poche settimane fa con mio figlio che ha 6 anni l'ho portato a Superga a fargli vedere il monumento del Toro, dove cazzo il Toro, e lì davanti c'era la gigantografia della squadra del Toro, le stelle con tutti i nomi, mi sono commosso. E la Superga, credo che il 4 maggio dovrebbero salire tutti i tifosi delle squadre italiane con la loro sciarpa, della Juve, del Toro, del Milan, dell'Inter, del Bari, per portare rispetto verso quello che è stata questa grande squadra che era il Toro, e i tifosi del Toro dovrebbero aprire un po' di più a tutti i tifosi italiani, andare su con il rispetto che si ha squadra. E lo stesso, i 39 tifosi della Juve sono andati a morire per la loro squadra, andare a vedere una loro squadra in una giornata di festa, dovrebbero, cioè, tutti questi cori che poi si sentono allo stadio. Esatto, lì volevo arrivare. Io mi accontenterei senza salire in massa a Superga o senza scendere tutti in piazza con i lumini nel ricordo dei morti della Israele, mi accontenterei di non sentire più quei cori e di non vedere più quegli striscioni. Non so se verrò accontentato, credo rimarrò deluso. Sarò cinico, ma rimarrò deluso. Sarò pessimista, ma credo rimarrò deluso. Contador. Io non penso de manera de venganza, no. Yo creo que cada día la carrera viene como viene. hay que estar siempre concentrado al 100%, hay que estar atento con los cinco sentidos durante las 21 etapas y bueno, hoy ha sido un día más. La etapa de mañana es una etapa realmente complicada, muy complicada, con 240 kilómetros, eso va a hacer que la gente llegue cansada y ahora la prioridad es descansar lo máximo posible para mañana. Pier Augusto Staggi, oggi si sale tanto, eh? Ciao Carlo, sì, siamo a 2000, eh? Siamo a 2000. Siamo a 2000 metri. Che succede? Che Contador, Contador consolida il primato. Eh sì, ormai Contador è veramente un uomo solo al comando, è lassù, osserva, scruta, valuta, lascia parlare, lascia dire. Anche le malignità, non mancano le malignità. No, No. Ormai ieri hanno controllato le biciclette, adesso basta che uno cambi una ruota. Non aveva bucato, ha fatto finta di bucare, ha preso una ruota con all'interno del motorino. Situazione delicata, brutta e fastidiosa. Noi ne parliamo, come, però è anche vero che non si può dubitare sempre di tutto e di tutti. No, anche lì ci vogliono le prove, anche lì, anche perché anche comunque lì. Possiamo c'è parlare, ma anche lì ci vogliono bravo, le prove. Bravo, perché comunque c'è una commissione in sé che a campione valuta e soprattutto sorteggia delle biciclette da controllare al momento, tutto regolare. Però purtroppo qualche giornalista, in particolare dell'Equipe, ha scritto che Contador è forte, ma soprattutto è motorizzato, e questo ha creato veramente una situazione, ha creato un clima di dissidenza attorno al campione della tripla corona molto imbarazzante. Sì. Poi ognuno può dire e scrivere quello che vuole, alla fine, ripeto, ci vogliono le prove, ci sono dei giudici perfino nel ciclismo, e quindi la parola aspetta loro. Ognuno può malignare finché ne ha voglia. Grazie Pier, ci sentiamo nei prossimi giorni, più tardi. Ciao Carlo, ciao. Un abbraccio. Ciao, ciao. Pier Augusto Staggi. Giovanni, facciamo in tempo in un minuto a rispondere ad Andrea da Reggio Emilia, sì, perché non voglio andare a casa scontento. Andrea, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno, grazie per la convocazione. Il mio intervento riguardava la FIFA e direttamente anche l'UEFA. Mi chiedevo brevemente, alla luce di quello che è accaduto e che spero accada anche con la UEFA, io leggo un'opportunità per le federazioni europee di smarcarsi da questo tipo di situazioni. Cioè, Andrea, non posso credere. Sappiamo già che non l'hanno fatto. No, però ieri Platini sotto traccia l'ha detto, cioè noi potremmo anche poi pensare di rivedere il nostro rapporto con la FIFA. Io credo sia difficile, ce l'ha spiegato prima Sorrentino, oggi non è una bella giornata per Platini, che non riesce a tenere uniti nemmeno i suoi, insomma, da quello che pare di capire. Poi vedremo questa sera, esce indebolito Platini così come esce indebolito Blatter, però il paradosso è che quello sotto i riflettori era Blatter questa volta e non Platini, che si era protetto anche non candidandosi, e quindi che cosa succede da domani non lo sappiamo. Di sicuro Blatter non farà prigionieri, e quindi è vero che sarà un presidente indebolito, e vediamo, c'è chi scrive durerà solo pochi mesi, però è anche vero che chi si è esposto all'opposizione non è detto che passi dei mesi molto sereni. Grazie Giovanni, ci sentiamo domenica dalle 17:00. 17:19. Grazie a Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti. Arrivederci ragazzi, ciao.